dico che anche se non so chi sei, cammini dentro i passi miei, in ogni strada, ogni città. Ti dico che il mio sogno messo in gioco, dentro favole da poco, e la tua ombra era già là. E non è quel che cercavo, ma per ora no, non ti ho mai incontrato. Io so che ci sei perché ti ho sognato. Ti dico che non conosco la tua storia, il tuo passato, la tua memoria, ma al finale ho scritto già. Dico che penserai una follia quando questa voce mia solo un nome chiamerà, perché sarai tu quel che cercavo, ma per ora no, non ti ho mai incontrato. Io so che ci sei perché ti ho sognato. Fianco, oh, oh, oh, oh. Ma per ora no.